Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti, da Frey e Debs. Ben ritrovate e ben ritrovati su Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio, disponibile il sabato sulle frequenze di 103.1 FM di Radio Città Fucico e a partire dal lunedì sul nostro sito www.radiovanloon.info. Ci stiamo avviando all'estate e naturalmente, come nostra abitudine, iniziamo a bombardarvi letteralmente di letture che potreste portare sotto l'ombrellone e in vacanza quando e come ci andrete. Il libro di oggi è un libro che un po' ci ha smosso un po' di simpatia. Siamo un po' compartecipi, smettiamo i panni degli storici e iniziamo a prendere quelli degli appassionati di musica e di sottoculture. E andremo ad intervistare fra pochissimo un autore, un appassionato, che possiamo chiamarlo in tanti modi, Flavio Frezza, che abbiamo già avuto ai nostri microfoni. E chi è Flavio Frezza? Flavio Frezza è una figura importante della scena skin italiana, è un viterbese, uno dei fondatori di Razza Parte, un gruppo che ci sta molto simpatico. Moltissimo. E che ancora avete modo di incrociare. È un appassionato di storia anche della scena skin di cui fa parte, e tanto che l'abbiamo ospitato l'anno scorso, direi, per la presentazione di Italian Skins, il libro che ha pubblicato con la El Nation Libri e che riospitiamo anche in questa puntata con il libro di oggi. Che libro vi andiamo a presentare, Debs? Allora, presentiamo Spirit of 69, la Bibbia Skinhead, di George Marshall, nella sua versione italiana. Ovvero questo libro gira dal 1991, è stato un libro fondamentale per la sottocultura skinhead. E George Marshall era uno skinhead e diciamo in Italia non ne avevamo una traduzione in italiano. Quest'anno El Nation Libri ha deciso di sostenere la pubblicazione in italiano di questo importantissimo libro e Flavio Frezza l'ha curato e ha anche fatto la traduzione. Ci tengo a dire che Flavio Frezza non ha fatto solo, diciamo, un lavoro da appassionato, ma anche, diciamo, un lavoro scientifico. C'è una cornice critica, un contesto critico in cui, diciamo, possiamo leggere questo libro. Infatti siamo contenti e contente come redazione di parlare di una cosa specifica, ma che vuole anche parlare a chi non è addetto ai lavori. La Bibbia Skinhead è un libro che cerca di fare la storia di una sottocultura, scritta però da uno dei suoi protagonisti, quindi con tutti i pro e contro di questa cosa, una soggettività specifica della propria scena che si racconta. E la stessa cosa succede anche con Flavio Frezza, curatore di questo libro, ma che appunto ancora oggi lo vediamo tra i palchi, i concerti o comunque dove si parla di skinhead. Adesso diamo la parola a Flavio direttamente. Ben ritrovato Flavio Frezza, di nuovo sui microfoni di Van Loon sui 103.1 di Radio Città Fucico. Per chi si è collegato o collegata solo ora, ricordiamo che stiamo per intervistare Flavio Frezza per essere stato il curatore di Spirit of 69, la Bibbia Skinhead, scritto tanti anni fa da George Marshall. Bene Flavio, partiamo subito arriviamo subito al dunque, insomma. Raccontaci innanzitutto perché secondo te che senso ha e perché, diciamo, chi non è addetto ai lavori, chi non si occupa di sottoculture o chi non, diciamo, non è uno skinhead, dovrebbe leggere un libro del genere o comunque interessarsi alla sua importante storia editoriale, no? Visto che ha avuto più traduzioni e solo adesso è arrivato in Italia. E poi ovviamente magari faccio un escursus su qual è, diciamo, il filo conduttore di questo libro. Prego. Allora, intanto buonasera e grazie per avermi pensato. Per quanto riguarda questo lavoro, Spirit of 69, e perché dovrebbe interessare a persone esterne alla scena, guarda, ti faccio una riflessione che avevo già fatto sul mio lavoro precedente, che era il libro Italia Skins, quello sulla storia degli skinhead italiani dall'80 al 2000. E in realtà io, facendo questo lavoro, non ho pensato molto a persone esterne, nel senso che ho fatto in modo che persone che non sanno niente della scena, anche tramite un impianto di note che è piuttosto esteso, potessero comprendere le dinamiche, quelle che a volte sono oscure anche a noi che di questa scena facciamo parte. Tuttavia, sia questo lavoro che quello precedente sono stati pensati principalmente per gli skinhead o per chi fa parte di sottoculture o scene affini come mod, punk, hardcore e così via. Tuttavia la sorpresa è stata quella di vedere sia le presentazioni che ho fatto finora, che tramite contatti su internet, tramite il mio sito Crombi Media, eccetera, eccetera, vedere persone che non facevano parte né della nostra scena né di scene vicine che erano molto interessate. Allora, per noi il discorso, che poi è un discorso anche politico, io non sono uno di quelli che mette la politica ovunque all'interno della scena e così via, però parlando di skinhead si finisce per motivi che sappiamo bene per parlare di politica. C'è stato, dopo, soprattutto anche nell'ondata nazi di fine anni 70-80, ma soprattutto dopo quella di fine anni 80 e anni 90, c'è stato un problema di agibilità in determinati spazi. Nel caso dell'Italia mi riferisco soprattutto agli spazi politici e centri sociali da parte della scena skinhead. Quindi, non volendo, anche facendo lavori che sono destinati agli skinhead, questi sono spesso utili per capire anche a chi frequenta certi spazi, come adesso facevo l'esempio dei centri sociali, che è comunque quello più azzeccato, per capire cosa sono questi skinhead, perché, ripeto, se c'è ancora confusione tra di noi su alcuni aspetti storici, figuriamoci all'esterno. Molte persone, per esempio nei centri sociali o anche militanti politici, ormai sanno che uno skinhead non è necessariamente di destra, anzi, sì. Se vogliamo guardare la questione numerica, in questo momento in Italia è vero esattamente il contrario. Tuttavia c'è una certa confusione, cioè magari molti vedono lo skinhead che deve essere per forza un militante politico, quindi o è di destra o è di sinistra, quindi tu sei un reskin e così via. Le cose non stanno esattamente così, e la storia degli skinhead è molto più complessa, e soprattutto la politica nel senso più alto del termine, quindi non parlo di mero ribellismo e così via, è entrata a far parte della scena skinhead dalla fine degli anni 70, condizionando in maniera molto pesante tutto quello che è successo in seguito. Ecco, io penso, siccome questa è una delle maggiori curiosità delle persone che non sono skinhead ma vorrebbero saperne di più sugli skinhead, questa è una delle maggiori loro curiosità che può essere soddisfatta leggendo Spirito 69. Allora, Flavio, guarda, ti interrompo perché mettiamo un pezzo e poi dopo riprendo una delle ultime cose che hai detto. Allora, ci ascoltiamo RJ All Star Liquidator. Questo è un consiglio che ci arriva direttamente da Flavio Frezza, che è il curatore del libro Spirit of 69 che stiamo presentando e che ci permette di entrare all'interno di questo libro, essendo la musica una parte inestricabile della vita anche skin e della vita di ogni sottocultura. Bene, allora ci siamo ascoltati il primo pezzo della nostra scaletta musicale, della colonna sonora che accompagna questa puntata di Walloon, in cui andiamo a presentare Spirit of 69, la Bibbia degli Skinhead, di un libro di George Marshall, curato nella sua edizione italiana da Flavio Frezza. Il libro è uscito per El Nation Libri. Flavio, c'era una curiosità che mi veniva a chiederti di condividere con te, che riguarda proprio il discorso che facevi sulla storia del movimento skin e sulla storia, sull'elemento della politica che entra all'interno, si intreccia a vario modo, poi questo lo si può scoprire sia leggendo il tuo precedente libro sia leggendo il libro che hai curato adesso. Ma quello che mi interessava era questo: il libro naturalmente non è un libro del 2019, è un libro che ha avuto la sua prima edizione nel 1991, in cui il contesto politico era molto diverso da quello che ci hai descritto, cioè era molto diverso essere uno skin nel 91 rispetto ad essere uno skin oggi. Ci puoi raccontare il contesto in cui George Marshall ha prodotto questo libro e il perché anche ha voluto scrivere questo libro, intitolato, forse non casualmente direi, anzi, Spirit of 69? Allora, il 1969 viene inteso comunemente come l'anno di nascita degli skinhead. In realtà la sottocultura skinhead è emersa in precedenza, anche se le è stato dato il nome skinhead soltanto nel 69, dalla sottocultura mod, per cui è difficile stabilire l'anno di nascita degli skinhead. Tuttavia si prende come punto di riferimento il 69, perché in quell'anno intanto gli skinhead hanno avuto un proprio nome, non erano più chiamati peanut, o non erano più chiamati, come ancora si usava in certe zone, mod, perché così venivano chiamati ancora gli skinhead, persino in alcune zone di Londra all'inizio del 69. E soprattutto la sottocultura giunge a maturità e è distinguibile anche a livello estetico dalla precedente sottocultura mod, anche per altri motivi, anche per motivi sociologici, diciamo, perché i mod nascono in un momento di piena occupazione, c'è la cosiddetta nascita dei teenager, i ragazzi hanno finalmente qualche soldo in tasca. Alla fine degli anni 60 la situazione comincia a cambiare. Quindi, siccome avviene nella seconda parte degli anni 70, c'è il cosiddetto skinhead revival, non che gli skinhead fossero scomparsi, però tornano in gran numeri, molti ragazzi molto giovani si avvicinano alla sottocultura. Nella stessa fase, per tutta una serie di contingenze, c'è da parte di un grosso settore della scena skinhead una politicizzazione verso destra, che è voluta inizialmente dal National Front e poi da partiti che si spostano sempre più a destra, perché il National Front era di fatto fascistoide, ma si proclamava soltanto nazionalista e patriottico. Dopo c'è uno spostamento sempre più a destra, quindi verso il British Movement, che era apertamente nazista, finché negli anni 80 non nascono strutture come Blood and Honor, Combat 18, strutture di estrema destra apertamente naziste, con azioni molto violente, e soprattutto strutture in cui militano persone molto convinte di quello che vivevano. Quindi, perché negli anni 70 non è per sminuire il fenomeno assolutamente, perché c'erano skinhead nazisti di età, diciamo, non più adolescenziale, però molti erano ragazzini di 15 anni che l'anno dopo va a capire a cosa si sono dedicati e a quali idee politiche hanno aderito e così via. In parallelo con questa politicizzazione a destra con gli skinhead, a cui c'è anche una risposta da sinistra, però questo è un discorso un po' a parte, c'è anche una trasformazione della sottocultura, ovvero una perdita di interesse per la musica storica degli skinhead, che è il soul, la musica ska, il reggae e così via, e c'è anche un peggioramento a parere di molti, compreso il mio parere e quello di Marshall evidentemente, dell'immagine degli skinhead. Quindi nasce l'immagine, noi preferiamo chiamarli bonet spesso, che letteralmente significa imbecille, per sì, il fatto che molti skin di destra non hanno un effettivo interesse per la sottocultura, ma utilizzano la sottocultura come strumento politico. Inoltre la loro immagine, quella stereotipata, anche perché poi la realtà è piuttosto varia, è quella dello skin vestito di nero, scarponi che arrivano fino al ginocchio, bomber nero e così via. Questi vengono chiamati bonehead. A metà degli anni Ottanta emerge, oltre alla risposta politica che era venuta dagli skin di sinistra, quindi nasce la tendenza Reskin, emerge anche un altro orientamento, che è precisamente quello della crew di George Marshall. Lui era di Glasgow e faceva parte di una crew chiamata Glasgow Spy Kids. loro tentano un tipo, tentano una sorta di recupero della sottocultura original, perché vedono il richiamo allo spirito del 69 come la risposta a questi mali della sottocultura, ovvero mi riferisco principalmente alla politicizzazione, alla trasformazione di skinhead in militante politico di destra e così via. Alla fine degli anni Ottanta succede un'altra cosa. Allora, da noi, come in molti altri paesi europei, i nazi arrivano nei primi anni Ottanta, gli skinhead nazisti, perché gli skinhead italiani andavano a Londra, vedevano che ormai là si era affermata una scena di destra, non che esistesse soltanto quella, ma era comunque quella più visibile, e arriva la prima ondata di skinhead nazisti in Italia, come nel resto d'Europa. Alla fine degli anni Ottanta, chi è della mia generazione se lo ricorda bene, c'è stato il crollo del muro di Berlino, la riunificazione della Germania, e proprio dalla Germania è partita la seconda grande ondata di skinhead di destra. Stiamo parlando dell'89. Ancora nel 91 si parlava semplicemente di skinhead, oppure, per usare un termine più giornalistico, nazi skin, e si è creata nella mente di molte persone l'idea che gli skinhead fossero di destra. Quindi non esistono più skin di destra, politici e di sinistra, ma lo skinhead è di destra. Ecco, in quel contesto, perché la prima edizione è del 91, il Spirit 69, e la seconda del 94, quindi politicamente l'aria stava un po' cambiando all'interno della scena, ma c'era ancora una forte presenza estrema destra, e George Marshall vede questo richiamo alla sottocultura original e lo vede come una sorta di salvezza. Oggi può sembrare un po' ingenua questa cosa, perché sappiamo bene che non si può tornare al passato, e sappiamo, voi facevate cenno di un cambiamento di contesto temporale, anche cambiando contesto geografico, la sottocultura skinhead assume caratteristiche diverse per forza di cose da quella che aveva alle origini. Comunque questo è il senso del suo lavoro. Lui parte dalle origini della sottocultura, tratta tutte le evoluzioni successive, compresa la politicizzazione a destra e quella a sinistra, ed è molto interessante perché, pur non risparmiando un giudizio fortemente negativo su certi risvolti, tratta comunque in maniera obiettiva qualsiasi sviluppo. Quindi lui ti dice com'è nata la politicizzazione a destra, qual è stata la risposta a sinistra e così via, dice quello che pensa in ogni caso, ma non cerca di imbrogliare, nel senso non dice gli skinhead sono nati apolitici e devono rimanere tali. Fa un discorso molto diverso, molto profondo e soprattutto molto pragmatico e intelligente, soprattutto calcolando che George Marshall stesso, come si sarà intuito, non era politicizzato e aveva anzi una certa antipatia per qualsiasi forma di politica organizzata, e tuttavia tratta con pari dignità tutta la storia degli skinhead, esprime, ripeto, i suoi giudizi, ma non cerca mai di imbrogliare il lettore facendogli passare per verità assolute quelle che sono semplicemente le sue opinioni. Torniamo sulla nostra colonna sonora, ci andiamo ad ascoltare un pezzo curioso che abbiamo trovato citato nel libro e che ci ha consigliato naturalmente Flavio, di un personaggio che è curioso, di cui varrebbe la pena ragionare, raccontare qualcosa, ma il tempo ai noi è tiranno, e intanto lo conosciamo ascoltandone uno dei suoi pezzi più famosi, che è Bring Back the Skins di Judge Dredd, perdonate la mia pronuncia, a fra poco. When we were skins, all the dance halls were full of skins. Sometimes you get your head kicked in, but still one day Reggae will be king again. I hope so anyway. Reggae! We'd live and die for Friday night, off to the pally and have a fight. Danced to reggae most of the night when we were skins. Above all this, our one big hope was pull a bird and have a grope. And if you were lucky, she'd take your own when we were skins. When mum and dad went off to bed, you'd stay and maybe have your end away. You never know, it might come back when we were skins. I had a bird with her hair cropped short, who put it about she was quite a sport. But that's what your mates were for, we all shared birds when we were skins. The stupid talk in the family way. Half hour's pleasure now I've got to pay. But that won't change the way I feel. I'm still a skin. Music crazes come and go. And down at Pally, I still make a show. But all the birds are dressing up like something out of the 40s. Granny's blowers and a real long skirt still let her heels, I'll bet they hurt. And when they dance, it's a real cheap thrill. But they're not skins. We used to dance all night till six to reggae sounds just like Big Six. Those were the days. Hope they come back. I really do. Reggae! Friday night, off to the Pally and have a fight. Dance to reggae most of the night when we were skins. Above all this, our one big hope was Blackbird have a crafty growth. Sempre sulle frequenze di 103.1 FM, siete sempre su Valloon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio, e Debs e Frey vi stanno curando, accompagnando assieme a Flavio Frezza alla scoperta di George Marshall, Spirit of 69, la Bibbia Skinhead, edito a The Daily Nation Libri. Bene Flavio, nell'ultima pezzo di intervista, insomma, ci hai fatto un po' anche conoscere George Marshall, il periodo in cui scriveva e anche il contesto in cui appunto ha portato avanti questo lavoro. E quindi ovviamente come storici e storiche questo lavoro rappresenta nelle sue varie edizioni un... qualcosa di prezioso, nel senso che è una storia degli skinhead scritta da qualcuno che era skinhead in un determinato contesto storico, arrivata in Italia solo ad oggi. Quindi diciamo, per un discorso generale sulle sottoculture, è un tipo di fonte di letteratura particolare e interessante. Tornando, diciamo, spostandoci più all'oggi, ci viene in mente il fatto che tu, che hai curato questo libro, non sei sicuramente estraneo alla scena in questo periodo. Quindi ovviamente mi viene da chiederti come è stato curare e tradurre un libro che parla di una scena di cui ci si sente parte, e se ci vuoi raccontare appunto qualcosa in generale su questo lavoro, su questa fatica e questa gioia che hai portato a termine. Allora, parto dalla seconda parte della domanda. Sì. Il libro, sì, io l'ho curato ed è stato stampato dal Nation Libri, che è in sostanza la collana curata da Roberto Gagliardi e Nation di Red Star Press di Cristiano Armati. E l'idea iniziale è partita dai ragazzi di One Law for Them, l'idea e la prima stesura di traduzione. Io poi ho fatto la traduzione definitiva, scritto l'introduzione e così via. E per quanto riguarda, sì, non sono estraneo alla scena, nel senso che oggi vesto in maniera un po' più sportiva, però sono entrato a far parte sì, no, perché ci sono molte persone che sostengono, magari si fanno crescere i capelli, sono ancora skinhead perché mi sento tale, pure io mi sento tale, però mi vesto in maniera un po' più sportiva oggi. Comunque faccio ancora parte di questa scena, visto che la frequento, e mi sono avvicinato precisamente nel 92, anche perché sentendo parlare continuamente di skinhead nazisti, quando sono emerse realtà un po' differenti. Poi io, essendo di Viterbo, c'ho una certa vicinanza geografica con Roma, appena 80 chilometri, quindi circa un'ora di macchina. Lì c'era una scena reskin molto forte, c'era la banda Bassotti. Questo è il modo in cui io e anche altre persone, non soltanto di quest'area geografica, si sono avvicinati alla scena skinhead, anche se poi come me hanno preso un percorso un po' differente, perché poi mi sono interessato a un discorso skinhead non estraneo alla politica, perché la politica dove non c'è viene imposta quando si parla di skin, quindi non si può fare una cosa del genere, ma sicuramente non mi sono avvicinato al discorso reskin, pur avendo anch'io mie idee politiche, che però ho portato avanti al di fuori della scena. questa è una cosa che tengo a chiarire. E va bene, Flavio, quindi questo è il tuo percorso, questo ti vorrei chiedere come hai incontrato questo libro e se questo lo aggiungo come improvvisata. Ci sono altri titoli, oltre naturalmente Spirit of 69, La Bibbia Skinhead e di George Marshall, che potrebbero essere utili per orientarsi e per entrare all'interno della cultura e della storia della cultura skinhead? Allora, io questo titolo l'ho incontrato nel 94, perché ne conoscevo già l'esistenza, però mentre in città più grandi come Roma c'era gente che si passava le fotocopie e così via, nella realtà viterbese, che è piuttosto isolata, si tratta di una città piuttosto piccola, sono circa 60.000 abitanti, non esistevano altri skinhead con cui scambiare materiale inizialmente, anche se c'erano stati già degli skin negli anni 90. Quindi quando nel 94 è uscita la seconda edizione, la prima cosa che ho fatto è stata scrivere a George Marshall e farmi mandare questa. Per quanto riguarda titoli, sì, allora, di studi sugli skinhead ne esistono moltissimi. Il fatto è che la maggior parte sono di tipo sociologico. Io non ho niente contro la sociologia, assolutamente. Tuttavia, molti sociologi, parlando delle sottoculture, tendono a intervistare una singola persona oppure un gruppo ristretto di persone e a dire, ecco, questa sottocultura è così. Di recente ho letto un saggio, c'era un'intervista a uno skinhead del 72, londinese, quindi siamo ancora ai margini, al tramonto della fase original. Questo skinhead spiegava, io odio i neri, odio gli ebrei perché vivono alle nostre spalle, una marea di cazzate del genere, tutto molto interessante, soltanto che poi il sociologo in questione traeva le sue conclusioni sulle idee politiche degli skinhead, che è una cosa profondamente sbagliata, perché all'epoca c'erano anche skinhead di sinistra, skinhead disinteressati alla politica ma non razzisti e così via. Quindi, se vogliamo rimanere sull'approccio storico alla sottocultura, io credo che il libro migliore dopo Spirit of 69 sia un altro libro di George Marshall, ovvero Skinhead Nation, che è uscito, se non sbaglio, nel 97. E quando è uscito Spirit of 69, George Marshall aveva appena 25 anni, aveva un approccio più da fanzinaro, non uso questo termine in maniera dispregiativa, no, chiaro, però... Chiaro. Era questa la sua storia, perché lui veniva dal mondo delle fanzine e, ripeto, era molto giovane. Lui stesso nell'introduzione scrive, io non sono un esperto di niente, anche se poi è stato così ardito da sottotitolare il suo libro La Bibbia Skinhead. Comunque all'interno, all'interno scrive, non sono un esperto di niente, sono uno skinhead che cerca di rendere ad altri skinhead un resoconto attendibile della propria storia. E parliamo del 91. Nel 97 ovviamente lui era una persona più matura, aveva la propria casa editrice e così via, si era fatto una certa esperienza, ha scritto un libro molto più maturo sugli skinhead, dove non parla soltanto di scene, è dedicato molto alla scena statunitense ma anche a qualche scena europea, ma soprattutto ritorna indietro su quelli che erano i punti deboli di Spirit of 69, approfondisce ad esempio il razzismo che era più culturale che biologico presente nella fase original, e tocca alcuni argomenti come lo skinhead revival e così via. Poi ci sono altri libri scritti dagli skinhead per gli skinhead, però io penso che una persona che non sa nulla della scena o anche qualcuno alle prime armi leggendo Spirit of 69 e Skinhead Nation si può fare un'idea piuttosto esauriente di tutte le fasi della sottocultura che vanno dagli anni 60 fino alla fine degli anni 90. Bene, Flavio, ti ringraziamo anche per quest'ultimo spunto, speriamo che le case editrici indipendenti colgano insomma i tuoi inviti a tradurre gli altri libri di George Marshall, perché appunto l'altro libro che hai citato ancora non è tradotto in italiano. No. Ne approfitto per ringraziare ovviamente El Nation Libri per, diciamo, questo fantastico lavoro che fa di tutela, conservazione, divulgazione appunto di opere come questa, che per esempio ancora non era arrivata in Italia, e noi ti ringraziamo tanto e speriamo di risentirci al prossimo libro. Grazie a voi, sicuramente. Ciao Flavio, ciao. Ciao. Bene, ringraziando ancora Flavio Frezza per essere stato ai nostri microfoni, noi siamo arrivati al termine della puntata ricca in cui abbiamo raccontato del libro The Spirit of 69, La Bibbia Skinhead, a cura di Flavio Frezza, ma scritto da George Marshall nel lontano 1991, edito da El Nation Libri. Per oggi è tutto, buon proseguimento di giornata da Frey che vi saluta. Ed Ebs naturalmente che vi salutano a questo punto con l'ultima canzone della puntata di oggi, che è Chaos dei Foreskin. Buon proseguimento di giornata a tutti e tutti da Frey ed Ebs. Ciao. Bombing up the street, on the street corners where the gangs do meet. Talking about the weekend, what are they gonna do? Yeah, I'm not careful, we gotta blow you. Coming on the skinhead, coming on the boat. Hang on if they don't beat up, they're gonna end the show. They are the new breed and they will end the show. They are the new breed and they are turned on. Dickheads! Chaos in the city, civil war now. Skinheads taking over like skinheads nowhere. Skinhead with his boots on, now we've got his soul. Skinheads taking over, chaos is the rule. Chaos! Thank you.